se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevo dire? Ah, vattene, non sei niente, solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. Chiacchiere distintivo. minuti primi, ritorniamo in diretta dopo l'esperienza sonora di prove tecniche di trasmissione. Cogliamo l'occasione per un saluto affettuoso a Elettrodo. Minuti primi, come dicevamo, questa è Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale. E siete all'ascolto di 25 O'Clock. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera, quindi stasera, a quanto ho capito, serata a tema. Anche se io insomma mi era arrivato un messaggio in cui si diceva serata in stile pagano. Per cui pensavo appunto che in qualche maniera veniva qualcuno a pagare, e invece non era così. Poi dopo qualcuno pagherà. Ho sbagliato l'accentazione. Sì, in effetti forse il significato è differente. E oltre... non è una serata retributiva, diciamo. Sorpresa, ma di chi è questa voce? Questa voce magnata, questa voce consumata. Questo magnatume. E quindi è la serata del grande ritorno del Magnatizers. Grande, saluto tutti quanti, tutte quante, ben ritrovati. Dopo esperienze nordiche col fantasma, ci siamo aggirati nelle lande nordiche. E questa sera questo sarà il risultato, insomma. Un altro utilizzo delle sottoscrizioni di Radio Onda Rossa, oltre che pagare gli ospiti, come per lo scorso mercoledì con il mitico Banana, che ha portato la sua professionalità all'interno della trasmissione. Le sottoscrizioni servono anche per le nostre spedizioni. Più che altro per i ritorni. ma questa è un'altra storia. Sottoscrizioni appunto importanti per mantenere in vita questa radio libera dal 1977. Una radio che, ripetiamo sovente qui da queste parti, non campa d'aria. Radio che potete sostenere attraverso lo storico conto corrente postale della radio. Al 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. chiedevo al 56 00 185, Roma San Lollo. Sì. E potete sostenere la radio anche attraverso il sito, raggiungibile al www.ondarossa.info, andando a ricercare poi Sostieni, sarete indirizzati alla pagina di PayPal. Sito attraverso il quale potete rimanere aggiornati con le notizie, le corrispondenze, i redazionali e i podcast delle trasmissioni. Ricordiamo che potete e dovete scrivere alla radio. Il sito della redazione ondarossa@ondarossa.info. Diversamente invece, per mandare i vostri insulti, perché penso altre possibilità non ci sono rispetto a noi, c'è 25 o'clock, 25 scritto al numero @ondarossa.info, oppure fantasma@ondarossa.info. Quindi fatevi sentire. Aggiorniamoci. E cominciamo con le selezioni di questa notte, in attesa della spiritualità pagana. E questi erano i Count Raven con la loro I Beliefs, pezzo uscito su una compilation che già abbiamo nominato più volte da queste parti, che è Dark Passages, compilation assemblata da Lee Dorian dei Cathedral nel 1991. Compilation che è stata un po' il portale della nuova rinascita del Doom. Quindi una delle prime uscite della Rise Above Records. E sotto le funeree note dei Cathedral. Vi andiamo a presentare questa formazione dalla Spagna, Barcellona. Loro sono gli Eight Hands for Cali, usciti per Pariah. Pariah Child, un'etichetta irlandese. E quindi da questo EP del 2003, intitolato Mount Meru, ci ascoltiamo la seconda traccia, Left Handed and Blood Red. We'll be right back. Quindi da Barcellona, Eight Hands for Cali, il doom sporco catalano. E la scorsa volta ci siamo ascoltati da Nativity in Black parte 1, la cover di Sepultura. Quindi questa volta dal secondo volume di Nativity in Black. Compilation tributo di cover di pezzi dei Black Sabbath. Per collegamento naturale delle Sepultura passiamo ai Soulfly. E questa è la loro versione di Under the Sun. whispers of you. The flame of life burns low. There's dinosaurs in Vietnam. There's dinosaurs in Vietnam. There's dinosaurs in Vietnam. We'll be right back. e sempre da Nativity in Black volume 2. Questa è la delirante versione di Into the Void firmata The Monster Magnet. Non l'avevamo mai sentito così effettato il buon Dave Windorf, mutanda di latta. E insomma, che di effetti se ne intendono, insomma, no? Sì, non so, ecco, se è effettato o sotto effetto, però appunto l'effetto finale è quello che avete ascoltato. È d'effetto. E noi, con questo cosa introduciamo, quindi? No, dopo questo squagliatume andiamo a cambiare un po' le atmosfere qui a 25 o'clock. Perché? Perché Magnetizers, no, che poi tra l'altro ci rincontriamo questa sera per la prima volta dopo il ritorno. Può sembrare scontato, non era così scontato che noi tornassimo, perché gli ostacoli sono ci stati... sono stati degli ostacoli lungo il tragitto, insomma. Comunque siamo... è tornato tutto poi? Alla fine? È tornato tutto. Perfetto. Soprattutto noi, anche se abbiamo avuto delle difficoltà. Comunque siamo stati in missione nei territori baltici e dapprima in Lituania, e siamo stati a questo festival di cultura pagana. Sì, perché di prima acchitto, la dico così per rompere pure, certo, la poesia, e il pathos che ci ha messo il fantasma, però diciamo, detta così, no, diciamo, andiamo in Lituania, ricorda un po' la scena di Un sacco bello, quando c'è il personaggio che partono con le calze per la Polonia, invece tutt'altra, no, cosa, tutt'altro, veramente, cioè, situazione opposta, perché abbiamo fatto veramente un intenti viaggio di magnatume estremo alla ricerca del magnatume sul Baltico. Esatto, però di magnato c'eravamo solo noi, però ci siamo fatti valere, ci siamo fatti riconoscere, ci hanno riconosciuto, ci hanno chiamato per nome, per aggettivi, insomma, no? Siamo stati riconosciuti come pazzi. E quindi comunque per la cronaca, siamo stati in Lituania a questo festival di cultura pagana che è Menuos Jodoragis, mi sembra proprio così la pronuncia, probabilmente è la più fedele possibile che potevamo riportare, ed è un festival che fanno da 15 anni in Lituania, al confine con la Lettonia, nella ridente cittadina di Zarasai, dotata di ridente laghetto con annessa isola, dotata di 7 laghi, il cui lago principale al centro di questa zona di laghi ha un'isola dove fanno questo festival con diversi palchi, diverse cose, generi musicali tra i più disparati, c'è molto, molto new wave, elettronica, qualche gruppo metal, però tutto ciò che si può ricondurre comunque sia alla cultura tradizionale lituana, al paganesimo, orientata verso appunto proprio più le tradizioni pagane. E infatti la maggior parte baltiche in generale, poi si può dire, perché quest'anno ospitava un gran numero di artisti dalla Lettonia. E per cui c'era appunto anche questo mix dei vari folclori, diciamo. Filo conduttore principale era il paganesimo, cioè. Il paganesimo. Quindi poi la maggior parte poi dei gruppi che si esibivano in questo festival erano più che mai erano gruppi corali che appunto riproponevano canzoni tradizionali lituane, e in questa edizione dei fratelli pagani lettoni, perché condividono il credo e la spiritualità, ricordandoci in alcuni momenti anche i cori polifonici sardi, sì, no, è vero. Senza voler fare una battutaccia, però in alcuni momenti è vero. Diciamo, le polifonie vocali, ma questa è una cosa comunque antica, per cui quando si va a scavare nelle radici del suonare della musica, nel senso proprio di quella cosa che accompagna la vita degli uomini e delle donne, molte volte appunto poi si ritrovano in realtà. Infatti delle ci ha colpito però a livello antropologico, arcaiche, sì, questa coralità dei polifonica, insomma, che si riconnette anche parecchio, insomma, ad altre culture, per cui c'è un qualcosa di ancestrale, sì, che lega tutto quanto. E probabilmente che ci ricongiunge a un fatto molto semplice, cioè le radici di tutti e tutte sono quelle, insomma, quando vai a girare nasciamo più o meno 6 milioni di anni fa nel Corno d'Africa, e di lì nasce la vicenda di questa strana razza distruttiva. Volevo leggere un po' quello che è... Volevo solo aggiungere una cosa. Prima, facendo una chiacchierata pre-trasmissione, avevamo notato che in realtà poi nei dati ufficiali, cioè se uno va a prendere la pagina di Wikipedia piuttosto che di un'altra enciclopedia, non troverà emergente il dato che in realtà appunto in questi paesi baltici c'è un grande ritorno, e probabilmente, mi dicevi la volta scorsa, non c'è mai stato c'è stato semmai un percorso sotterraneo che ha portato comunque il modo di vedere la vita, le cose, appunto nei termini tradizionali, appunto come non compare, in realtà non si vede. Ma appunto perché non è un credo istituzionalizzato come può essere il dogmatismo cattolico, ma è una spiritualità condivisa comunque dalla popolazione. Questa è la cosa che ci ha colpito un po'. Non abbiamo avuto la percezione si trattasse di un revival o di un festival pagan folk a livello commerciale, o insomma si possono trovare magari anche qua in Italia. Insomma, si vedeva un intento molto spontaneo, diciamo, nel voler mantenere tutte le varie tradizioni folcloristiche attuali, senza appunto dare quel tocco di revival pecione, diciamo. Esatto. E niente, volevo leggere un po' quello che era la Romuva. Poi chiaramente c'è anche da dire che la spiritualità su tutto il Baltico ha dovuto anche appunto avere alti e bassi e momenti in cui è stata tenebrata, data dalle continue vicende storiche, occupazioni di vario genere che ci sono state, che chiaramente anche quello hanno oscurato in alcuni periodi quella che era la cultura più tradizionale, che però diciamo abbiamo potuto constatare che non è mai morta. E appunto volevo leggere un po' di questa religione pagana che è la Romuva, che appunto sostiene la sacralità, e leggo qua dalla pagina di Wikipedia, sostiene la sacralità della natura come anche la venerazione degli antenati. Gli aderenti della Romuva ritengono che l'anima di coloro che muoiono continui ad esistere nell'aldilà e stia insieme alla famiglia vivente e ai discendenti. Religione che ha vissuto la repressione sovietica, quindi quando l'Unione Sovietica occupò con la forza la Lituania nel 1940 e la rinominò Repubblica Socialista Sovietica Lituana, a causa della natura nazionalista della Romuva, questa fu soppressa durante l'occupazione sovietica e molti praticanti furono giustiziati o deportati nei gulag in Siberia. Si sa che è esistito un gruppo clandestino Romuva nel campo di lavoro di Inta in Russia. Dopo che i membri furono rilasciati e poterono tornare in Lituania intorno al 1960, Jonas Trinkūnas fornò la Vilnius Technological Romuva e iniziò ad organizzare celebrazioni pubbliche delle festività religiose tradizionali lituane nel 1967. Nel 1971 i sovietici espulsero i membri della Romuva dalle università che frequentavano ed esiliarono nuovamente i loro dirigenti. Durante la Guerra Fredda quasi tutta l'attività organizzata dalla Romuva era localizzata in America settentrionale. Però dal 1988, quando il potere dell'Unione Sovietica stava svanendo e l'indipendenza lituana era all'orizzonte, i gruppi della Romuva cominciarono a riorganizzarsi nelle nazioni baltiche e a praticare apertamente la loro religione, sotto gli auspici della legge sulle associazioni e comunità religiose, approvata in Lituania nel 1995. La Romuva quindi ottenne il riconoscimento come religione non tradizionale. La legge lituana infatti richiede un minimo di 25 anni di esistenza perché una religione possa ricevere il sostegno statale riservato alle religioni tradizionali. E questo poi abbiamo approfondito personalmente con le persone che erano qui appunto in questo festival, e la continuità di questa spiritualità è stata ininterrotta da tempi veramente insomma da secoli. Una spiritualità che è continuata in diciamo nel sottobosco rurale quindi insomma ce la ritroviamo ancora oggi. E appunto un gruppo che abbiamo visto durante il festival sono gli Skyforger dalla Lettonia, che intestano metal e canti tradizionali lettoni, e ce li ascoltiamo con questa Migla Migla Rasa Rasa. quindi dalla Lettonia Skyforger. Siamo ascoltati Migla Migla Rasa Rasa dal disco del 2003 Thunder Forge. Un'altra cosa che mi aveva molto colpito lì al festival, che poi si ricollega volendo anche a tutta la il discorso della tradizione religiosa che guarda anche agli antenati e quant'altro, il fatto che all'interno del festival ci sono molte attività per i bambini, mm-hmm. E infatti il festival era frequentato da moltissime famiglie, peraltro l'età media abbiamo visto che delle famiglie è molto più bassa, molto di giovane, di quella a cui noi siamo abituati, e forse mi ha dato da pensare pure che è proprio per questo che guardano molto comunque sia al tramandarsi delle cose, e per cui erano molto attenti proprio a livello organizzativo a dare tutti gli spazi per i bambini, dove facevano intrecciare col fieno le rune, gliele facevano appendere agli però alberi. Diciamo, da una parte fa parte probabilmente una suggestione questa qui importante, dall'altra parte non ci dimentichiamo che stiamo parlando di paesi che si affacciano sul Baltico e che quindi sono vicini pure al modo proprio più moderno, forse organizzativo, della vita scandinava, insomma, in cui comunque nulla viene normalmente lasciato al caso. Beh, sicuramente sì, anche l'influenza proprio geografica così vicina della Scandinavia, insomma, la famosa civiltà nordica. No, è proprio a proposito senso civile del termine tradizione, ovviamente che usiamo è bene appunto precisare, perché altrimenti è una di quelle parole difficili da maneggiare. E tradizione si intende proprio forse il significato più letterale, cioè il guardarsi indietro per ritrovare il filo. Ovviamente nella cosa che abbiamo ascoltato c'è molto poco di tradizionale, tra virgolette, nel senso che non credo che nel 400 o nel 600 avessero degli strumenti elettrici per così elaborare questo tipo di suono. Quindi appunto è La prima parte questo percorso, diciamo, la prima parte del pezzo che era tutta corale, esatto. Poteva essere benissimo la stessa, però appunto non parliamo mai di tradizione come semplicemente pensare al passato come qualcosa di fisso e immutabile. Cambia il passato, cambia il presente, cambia il futuro, c'è questo filo, questo trovare forse qual è il sentiero, qual è il percorso giusto, ecco, e sapersi anche guardare indietro. Poi diciamo che sempre durante il festival abbiamo vissuto, insomma, e appreso la celebrazione di quello che era la fine dell'estate, la fine della luce e l'ingresso nel mondo delle tenebre. Che da loro succede un po' prima. Sì. Perché stanno a nord. Stando a nord vivono la luce in modo diverso, semplicemente, quindi era un po' l'ingresso al periodo dell'anno dove hanno 18 ore di buio. Quindi tutti i canti, molti canti, insomma, erano dedicati alla luce. E noi sempre dalla Lituania ci ascoltiamo Donis e Rasa Serra. E questo è Bitelingo. We'll be right back. Go, bitte, Lena, go, bitte, Nelo, go. E questo era un pezzo di Donis e Rasa Serra dalla Lituania. Scoperto andar per la maggiore, peraltro. Io non conoscevo quest'artista, veramente interessante. Una celebrità nazionale, insomma. E Pitelingo, uscito nel 2006 per la Dongus Records, che è un'etichetta lituania basata a Vilnius, che ha iniziato proprio ad organizzare questo festival 15 anni fa e ancora, insomma, segue la direzione artistica. E ci spostiamo un po' dalle terre baltiche. Ed andiamo a nord della Danimarca. Dalle isole Faro. E loro sono i Tyr, questa è la loro Regin Smidur. E noi in questo momento ci troviamo così in sintonia con una vibrazione, come si può chiamare, una sensibilità. Che è quello di un nostro caro compagno. Per ora in stato di prigionia. Ed in questo ci sentiamo perfettamente allineati. E anche molto umili, perché appunto poi Alberto in realtà sono veramente 15-17 anni, non so, insomma, che ha condotto il Nottibus Panis, parlando proprio di questo, di panne, di religioni pagane, di culti precristiani e di tutto appunto quel modo di vivere che in realtà proprio l'avvento pesante e in questo caso veramente maschile, patriarcale del cristianesimo, per come appunto si è evoluto nei primi secoli, poi ha spazzato via tutto questo, l'ha occultato, l'ha eretizzato, ha cercato anche nascondere, di celare, di opprimere quelle che erano i sincretismi, cioè l'entrare comunque dai pori, dagli interstizi della vecchia cultura pagana, del vecchio modo pagano, anche nelle religioni appunto magari patriarcali, moderne, maschili, cioè. E con una visione totalmente negativa, infatti pare che il diavolo prima non esistesse, è un'invenzione tutta cristiana, presa appunto dal dio Pan, il dio cornuto. E invece no, Pan era altro. Era forse semplicemente la rappresentazione della natura, cioè del tutto, dell'armonia, dell'essere, dell'armonia. No, quindi lo dicevamo prima, i microfoni spenti, proprio della condivisione, del far parte, del condividere. Noi continuiamo il nostro viaggio dall'Inghilterra, Forefather. Stroll with a hay down, down, down, down, down, onward through. to the gentlemen of England's revived. No, è sprigionata tutta la furia pagana possibile. È stato uno squarcio violento. Qui nello studio, insomma, avevamo creato una bella atmosfera, c'erano tutte le candele accese, insomma, i moccolotti, eccetera. Come è partito, invece, niente, ha spento tutto. Una folata di vento e si è spento tutto. La furia pagana ha distrutto tutto. Vabbè, ma a noi la furia ci piace, quindi ce li rimettiamo da capo, loro sono i Bathory. Father, E questa era For All Those Who Died dei Bathory, sempre per rimanere legati al culto degli antenati. E ora ci rimaniamo in Svezia, ci sentiamo Jotig tra le primissime formazioni folk metal con Trollslottet. Klang stämmor ifrån hedna valv. Det grymna urtidstroll i norren må nu sjunga. För denna urlivsformens väsen själva berget skalv. Som bilde bråd i stenartiken i fullt ubeskådas. Det omvända synes bilder även dina ord. Och aldrig ska du från urtidsborgens klor benådas. Ty du vet på ganska bryggt vid trollkungens bord. Trollslottet. mezzanotte e 15 minuti primi, 87.9. E questa è Radio Onda Rossa. E questi sono gli Obiat dell'Inghilterra. E questo è un disco del 2005. e dalle terre nordiche ci siamo spostati nella... in quello che loro chiamano nuovo continente. Loro sono Jack Stott, San Francisco. Rimaniamo sempre negli Stati Uniti, però ci spostiamo in Virginia. E loro sono i Valkyrie. E sulle note dei Valkyrie vi andiamo a ricordare l'appuntamento di questa domenica. Domenica 29 settembre dalle ore 13 pranzo alla Sagra del Peperoncino Rebelde. Per stomaci forti, eh. E quindi la prima sagra del Peperoncino Rebelde. a sostegno dei progetti in Messico. Dalle ore 13 pranzo, apertura stand, piatti piccanti a base di peperoncini di ogni sorta. Proiezioni video, mostra sul Mexico Rebelde. Spettacoli di danza aerea con la compagnia teatrale Angela Davis da Napoli. Competizione a base di peperoncino, Ocio. Ore 18, dibattito. Tessere la resistenza globale iniziando dai nostri territori. Se resistete, alle ore 20, cena piccante, sapori dal mondo. E per tutto il giorno reggae, roots, cumbia, ranchera, cantinera con Radio Torre Crew, Pince Perro. E la grande Martis da Esquina del Sol. Abbiamo detto che è il Forte Prenestino. Al Forte Prenestino, eppure che la rivoluzione inizia col peperoncino, vedi? Soprattutto quella dell'intestino. Oh, però stasera abbiamo visto pochi trilli, eh? Non trillano. È affetto da, è l'effetto della magica. Stanno anestetizzati. Però noi glielo diciamo uguale. 06491750, il telefono di Roar. Another Way to Shine. È il disco degli Spiritual Beggars. Si stava ricordando alcuni album fantastici de fine anni 90. Ma allora trillano. Allora trillano. Ah, vedi. E spontaneamente ci è venuto in mente un album dei Cathedral fantastico, Caravan Beyond Redemption. E questo è Voodoo Fire. Mi raccomando i trilletti, eh. De son bien rouge pour te rendre fidèle. Nous n'en non soucis. Finalmente è una liberazione. Ci teniamo a precisare che è tutto puramente casuale. Sì, sì. Ci dissociamo assolutamente da quello che dai contenuti nulla. Trasmessi. Non siamo responsabili. Cioè, ci hanno costretto. Stiamo dimostrando di non essere responsabili. Cioè, lo ammettiamo. Signorina, può esibire il biglietto per favore? Non ce l'ho. Senta, favorisca almeno la tessera, no? Non c'ho mai la tessera. Senta, allora te faccio a multa. E io ti faccio un culo così. E non timbrare mai il biglietto. Non lo timbrare, e non comprarti neanche la tessera, non te la comprare, ma come cazzo? E allora sì, che saranno cazzi loro, quando noi cagheremo in testa, sali davanti, scendi dietro, quando te pare a te, concedere il posto ai biglietti, mai e poi mai, mai proprio mai. Voglio il conducente e puntagli dentro agli occhi, per tutte le volte in cui non ti è fermato. Tronzo! Ah, di merda, ah, di merda, ah, di merda, ah, di merda. E se quel cazzo di autobus non arriva mai, e te rode il culo. E se per colpa di quello stronzo arrivi in ritardo, arrivi in ritardo. Punta una bomba a capolinea, e quando puoi caga sui sedi. E se quel cazzo di autobus è pieno di gente, è pieno di merda, tu prendi a calci culo tutti quanti. Per il conducente, quello pronto te mette, e di brutta merda, io non pagherò, perché questa attacca non vale un cazzo. Attacchi merda, attacchi merda, attacchi merda, attacchi merda. Conducente, mi scusi, mi fa scendere davanti? No! Salire di dietro? Ma levati dal cazzo! Conducente, per favore, fa scendere al centro? Ma non rompe i coglioni! Pieno delle 25esima ora, mezzanotte e 49. Questa la dedichiamo al banana. E visto che trilleno, professore. No, dico banana, ci devi azzeccare quante battute al minuto qua, Contare. Ma lui lo sa. Da Among the Living, Anthrax, da capo. 1:03 in questo momento. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. E questa è 25 o'clock. Se siete ancora all'ascolto, 0649 1750. Intanto andiamo a ringraziare il Magnatizers. Grazie a voi, come sempre, di ospitarmi. Sempre con un bagaglio carico di frequenze distorte. In realtà si concretizza come una busta della spesa con la quale arrivo tipo homeless tutte le volte. E sotto sono i Celtic Frost con la loro versione di Mexican Radio, che rimettiamo da capo. The Wall of Voodoo, professore. urvaro kame va bandhanan mrityor mukshiyam amritatum om triambakam yajamahe sugandhim pushyavardhanam urvaro kame va bandhanan mrityor mukshiyam amritate Triambakam yajamahe sugandhim pushyavardhanam urvarukam eva bandhanam Tutto torna. Basta aspettare quel tanto che basta. Tutto torna al centro. E questo è l'OM. Il suono dell'universo. In quel territorio ben oltre la 25esima ora. E questa è 25 o'clock. Torna tutto, tornano i Walla Voodoo. Che ormai la bellezza di 27-28 anni fa risuonavano proprio in questi studi. Tutto muta, tutto si muove, tutto si trasforma. Basta non perdere il filo. E a proposito di paganesimo, così per concludere questa notte di 25 o'clock, Cesare Basile, che è andato a trascrivere un testo da una registrazione di parecchi decenni fa di una delle ultime guaritrici siciliane. E le ha quindi risuonate, fatte risuonare. Parole antiche che forse per un nostro errato giudizio potrebbero sembrare ingenue. Ma che invece nella semplicità esprimono un buon punto di vista, se non una verità. Strofe della guaritrice Cesare Basile. Ce li abbiamo dentro tutti e i vermi sbattono e vogliono mangiare, così mangiamo per noi e per i vermi, e tutti abbiamo i vermi e non ce ne accorgiamo, non ce ne accorgiamo. Noi ci mandiamo le cose che ingoiamo e più ingoiamo e più si ingrassano i vermi. Mangiano, lavorano, camminano dappertutto, camminano nella vita, girano nel ventre, cercano da mangiare. Noi abbiamo due sacchi, abbiamo due sacchi per uno, e dove non c'è da mangiare il verme morsica e fa male. Nascono i vermi, nascono tante cose addosso, e quando si crepe non si mangia più il verme, esce e mangia la carne che era la carne nostra. Ce n'è di piccoli e ce n'è di grandi, dipende se hai il sangue avvelenato o dolce. Quello che ha il sangue dolce, vermi ce ne assai, fra loro covano e ne fanno altri di vermi, ne fanno altri di vermi. E tutto il mondo e tutti gli uomini è così, e fuori dal paradiso il sangue si trasbuglia, e con la collera vengono strane cose. Salgono i vermi a catafascio, ti mangiano il cervello, ti mangiano il cervello. Che quando il sangue si imbroglia nascono cose cattive, e quando il sangue si imbroglia c'è qualcosa lì dentro, e si stravagliano i vermi e le persone, e la paura ci fa i vermi mangiano nella paura, mangiano nella paura. Un sacco per pisciare, uno per mangiare, e se uno non ha vermi non può digerire. Il Signore è così che lo vuole il mondo, se non campano i vermi nessuno può campare, nessuno può campare. Se non campano i vermi nessuno può campare, nessuno può campare. Un sacco per pisciare, uno per mangiare, e se uno non ha vermi non può digerire. Il Signore è così che lo vuole il mondo, se non campano i vermi nessuno può campare, nessuno può campare. Mera devi dushamana na agad vishvati bhadraso manasya mana twaya dushtanu damana duruktan bruhadvadema vidate suvira twaya dushtarushirbhavati devi twaya brahmagata shrirutatvaya Tvaya dushtas chitram vindate vasusano jushas vadravino namede medha. E ormai che abbiamo il terzo occhio, conclamato. Devi Sarasvati medha. Non ci resta che salutarvi tutti e tutte. Tam pushkarasraja. Sì. No, ma il terzo occhio per le radiazioni. Sì, sì, sì. Ok. dai le varie discariche. No, invece molto più seriamente ricordiamo e salutiamo innanzitutto i nostri compagni detenuti. In particolare i nostri compagni e le compagne condannati a lunghi anni di reclusione in seguito alla sentenza del luglio dello scorso anno su Genova 2001. Quindi Marina Cugnaschi, scrivetele presso la seconda casa di reclusione di Milano Bollate, 120 via Cristiano Cristina Belgioioso 20 157 Milano. Il nostro Alberto Funaro, casa circondariale Capanne, via Pievaiola 252 06132 Perugia. E poi ancora Jimmy Francesco Pugliesi, casa circondariale di Roma Re Bibbia, nuovo complesso in via Raffaele Maglietti 70 00156 Roma, braccio G9 secondo piano. Satyam vadishyami tanmamavato tadvaktaramavato avato mam avato vaktaram. E mentre continua a recitare l'om con effetti che più che appunto illuminatori soporiferi, almeno a giudicare dalle reazioni in studio, la programmazione di Radio Onda Rossa finisce qui. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Bella a tutti e a tutte, un segno. Namarutya prajatantum avyavat.